want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di Gigi Telesco. Dalla Swing House di Renzo Arbore, siamo pronti per trasmettervi Soundcheck, un programma di musica e parole. E niente, forse è meglio che dica buon pomeriggio a tutti da Giorgia Telesforo e andiamo subito. Vabbè, al andiamo buon pomeriggio Renzo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Dunque, perché Swing House? Perché questa casa che io ho attrezzato è una casa dove tutto parla dello swing, di questa musica che è ritornata prepotentemente alla ribalta grazie al successo di Michael Bublé, di Diana Krall, di tanti altri, e alla riscoperta anche su vinile, come tu sai Gegè, c'è la riscoperta del vinile, esatto. Ma del neo vinile, cioè del vinile perfezionatissimo di oggi, alla riscoperta di grandi artisti come per esempio Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, George Gilberto, tutti stanno recuperando i loro dischi in vinile e vengono duplicati con questo neo vinile. E mi sa che anche tu stai facendo ristampare gran parte del tuo materiale discografico, no, in vinile. No, veramente lo fa uno per me. Che, beh, certo, vorrei vedere che lo facessi tu a casa direttamente. Si chiama Giulio Cesare Ricci, è il più grande portavoce dei vinilisti italiani, e lui ha scelto due miei dischi. Il primo è dedicato all'orchestra italiana, il secondo alla mia immagine swing, che uscirà in questi giorni in vinile, in neo vinile, che è una pasta meravigliosa, molto diversa da quella con la quale si facevano i 78 giri, i 33 giri, e che è il massimo della fedeltà. Eh sì, perché la cosa è molto buffa, perché adesso c'è un altro cambio per quanto riguarda il supporto discografico, perché credo che il CD abbia ancora poco tempo di vita, non tantissimo, certo. Però è molto buffa la cosa che il vinile invece ha ricominciato a vendere, e lo comprano gli appassionati, lo comprano i DJ, perché? Perché il suono del vinile è analogico, quindi non ha quella compressione digitale, e per gli appassionati cambia assolutamente tutto. No, ma è molto più umano adesso, è lungo spiegarlo, però non è il momento a quest'ora di spiegare perché il vinile è meglio del digitale, è meglio del CD. Il vinile è il supporto tecnologico col quale si tramanda la buona musica, compresa quella di Salvatore Accardo con i violini di Paganini, pensa tu. Quindi perfetto per lo swing e per questa settimana mainstream, perché questa è una settimana swing, avendoti come ospite non potevo non selezionare alcuni dei nostri artisti preferiti, e abbiamo sempre dato un valore enorme a questa pubblicazione. Guarda, beh, questo è un disco sottovalutato quando uscì. Eccoti il vinile. Allora, guarda, questo disco straordinario, nel quale c'è un elegantissimo Louis Armstrong con i calzini bianchi arrotolati, sui mocassini quelli Five Pennies, e la Fitzgerald con un bel vestito proprio da massaia, straordinario. Questo disco ha praticamente, si chiama Ella e Louis, Fitzgerald e Armstrong, ed è il primo di una serie di Ella and Louis Again, ed è un disco straordinario, perché se volete iniziarvi al jazz o allo swing, qui c'è tutto il portfolio, diciamo noi a Hollywood, ma anche a New Orleans, cioè c'è tutto l'elenco dei classici, degli standard classici con i quali i jazzisti di tutto il mondo si sono cimentati, da Cheek to Cheek a Tenderly, dai Foggy Day a Stars Fell in Alabama, tutti sono in questo. Allora, in questi noi dischi. Vogliamo iniziare l'appuntamento di oggi con il nostro soundcheck proprio con il brano di apertura di questa pubblicazione del 1957 per la Verve. Il brano si intitola Can't We Be Friends? Why should I cry ever sigh and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna take me down. Say, can we be friends? Allora, questa è classe, eh? Beh, questa è classe. Questa è una specie di come dire, di vademecum, proprio per capire attraverso queste canzoni così jazzistiche, perché poi c'era un Oscar Peterson straordinario, un Herb Ellis alla chitarra, ci si introduce al jazz attraverso per chi parte dalla canzone o dal rock. Senti, ieri ti avevo chiesto, da avvocato quale sei, di iniziare a scrivere la letterina a Papa Francesco per la beatificazione di Ella Fitzgerald. Hai iniziato il componimento o no? Guarda, ho cominciato con le preghiere. Non ecco, come è iniziata la lettera? Come ti sei rivolto a Papa Francesco? Sua Santità, come... Sì. Gentile, sì. No, cordialissima. No, vabbè, ho detto... guarda, io purtroppo non sono molto rispettoso, perché anche se parlo con Sua Santità mi viene sempre da dire la battuta, eccetera. Allora, no. Ho detto, scrivo questa lettera in là, che è la nota la, con la quale tonalità. Si parte, ci si accordano gli strumenti, dammi là e ti fa eccetera, e quindi ho cominciato, Sua Santità, comincio questa lettera accordandola in là e poi sto seguendo tutto il resto, però voglio essere rispettoso e quindi non ti racconto tutto il resto, però certamente arriverò sì. Alla fine della settimana però me la farei leggere, certo, con orgoglio la lettera. Allora, di Bergoglio, facciamo una piccola pausa e poi torniamo proprio con un alleluia. Va bene. Va bene? Eccoci. Soundcheck. Il suono della musica. I hear her on my door in the evening when the sun go down. When there is nobody else around. She kisses me and she holds me tight and tell me that everything's all right. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love. Oh, hallelujah. Don't you know? Alleluia, I love her so, la voce di Ray Charles. Ecco, credo, caro Renzo e cari amici di Radio 24, che Ray Charles, provenendo dalla scuola tipica del gospel della Chiesa Battista o evangelica, abbia avuto questa importanza, cioè quella di essere riuscito a coniugare le progressioni ritmiche e armoniche tipiche del gospel, introducendole con testi invece che parlavano comunque di amore, di sesso e di altre cose, anche a chi invece le vicende della Chiesa poi non le seguiva più di tanto. Senti, chiedimi chi preferisco tra Ray Charles e Frank Sinatra. Ecco, adesso Arbore, io avrei una ecco, mi stava venendo proprio un quesito per te, fra Frank Sinatra e Ray Charles chi preferisci? Ray Charles. Ecco. Lo abbiamo guarda, detto. Allora, però diciamo, io sono un grande ammiratore di Old Blue Eyes, cioè di Frank Sinatra, naturalmente non possiamo non apprezzare questo cantante straordinario di origine italiana, del quale ma ne parliamo tutto. Nei prossimi giorni. Vabbè, di Frank Sinatra, però dai, l'ho messo voglio da dire parte. Ray Charles è Ray Charles, è più nero di Frankie, e quindi è straordinario, e poi abbiamo fatto dei concerti insieme, lo so, tre concerti, abbiamo tutti e due aneddoti molto diversi, ma... su Ray Charles, e lui ha eseguito per conto mio una meravigliosa con la mia orchestra italiana O Sole Mio al Paramount Theater a New York, e che rimane una storia straordinaria, un'esecuzione che mi fa venire ancora i brividi e che è di mia proprietà, quindi ne parliamo un'altra volta. Quella versione di O Sole Mio, video e audio, e personalmente... Vabbè, qualcosa agli eredi dovrei pur dare. No? Adesso, ma devo rintracciarli gli eredi, è difficile. Non... Facciamo finta di niente. Vabbè, facciamo finta di niente, però voglio dire, grandissimo cantante, perché dietro la voce di Ray Charles e dentro la voce di Ray Charles, lui diceva che le canzoni napoletane avevano un'anima soul, anche lui lo diceva. Quando cantò O Sole Mio, disse, è una canzone soul, e quindi lui, dietro la voce di Ray Charles c'è veramente l'anima. Ecco, è un altro che come Ella Fitzgerald poteva cantare di tutto e rendere tutto bellissimo. Certo. Allora io vorrei farti ascoltare un altro dei nostri musicisti preferiti, che è The Incredible Jimmy Smith, qui con la voce di Taj Mahal. Questo è un bluesacchione, un classico shuffle, Renzo, di quelli che ci fanno vibrare, anzi ti consiglio di andare a indossare le scarpe che compriamo insieme a New Orleans, quelle che utilizzi quando vai nelle swing room a ballare con le tue... Telesforo parla di un paio di scarpe che portano il tempo appena te li metti al piede, portano da sole il tempo. Unz, unz, unz, Unz, quindi io le posso mettere soltanto quando vado a sentire lo swing, perché sì, allora, mi agitano il piede. Per quello te lo dico, valli a prendere. Vabbè. Jimmy Smith, Taj Mahal, il brano si intitola Strut, ci risentiamo fra pochissimo qui su Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Eccoci qui, siete in contatto con il soundcheck di Radio 24, Gegé Telesforo in compagnia di Renzo Arbore. Io non ti ho ancora ringraziato per l'ospitalità, perché ho invaso questo bellissimo studio arredato con tutti oggetti e manifesti che ricordano le tue malefatte artistiche. Guarda, in giro per il mondo. Anche, lo può anche vedere questo studio. No, basta sintonizzarsi su RenzoArboreChannel.tv. Ah, è vero. In rete, e mi si vede in, così come adesso sto facendo la radio con Gegé, ma mi si vede per Nature, è un channel per adesso molto timido, perché non mi piace ancora pubblicizzarlo tanto, però su Radio 24 lo posso dire, Renzo Arbore Channel.tv, ci sono delle chicche televisive. Ecco, chicche che riguardano la tua carriera o anche altre cose, no, anche che altri, ti sono state anche, liberate? Anche i miei maestri, anche i miei discepoli, perfino alcune cose tue. Senti, ma bene, male, non lo so, devo vederle, devo vedere. Senti Renzo, ma quindi qual è il tuo rapporto con la tecnologia? Perché tu hai una casa, la casa vecchia, quella che chiamiamo casa vecchia, piena di vinile. Una casa è piena di CD, e in questa casa invece la vedo arredata, certo in Arbore style, ma non vedo molti dischi, vedo molte radio. Quindi che cosa ci sono? MP3, c'è il digitale? Sì, ci sono radio. Finalmente ho fatto pace con la tecnologia, che prima eravamo buon compagni, tecnologico e io tradizionale, un ma po' più indietro. Adesso invece si sta invertendo, perché non si sta invertendo buon compagni, per la verità è rimasto com'era, ma sono io che ho scoperto la rete, ho scoperto la tecnologia, lo considero un dono della provvidenza che è arrivato al momento giusto, perché effettivamente quando il libro, insomma la cultura diventava difficile raggiungerla per tanti motivi anche da parte dei giovani, che sono naturalmente frenetici oggi, è arrivata questo dono straordinario che è la tecnologia e la rete, in particolare il web e tutto, che ti fa sapere quello che vuoi sapere in una frazione di secondo, in tempo reale, è una cosa straordinaria. E poi ti fa parlare in streaming, per esempio, con tutto il mondo. Io da questo studio posso parlare anche adesso in streaming in tutto il mondo, certo, posso collegarmi in tutto il mondo, ecco, come se fossi in Rai e fossi in mondo visione, e quindi è veramente una cosa straordinaria. Ma è così anche per noi qui in questo momento, perché Radio 24 in streaming può essere seguita in tutto il mondo, e allora in mondo visione, come dici tu, facciamo ascoltare questo Renzo Arbore and the Arboriginals, pubblicazione americana, e sarà pubblicato fra pochissimo in occasione proprio del concerto che farà Renzo, quando? Il 14 ottobre? 14 ottobre non è proprio un concerto, è la presentazione di questo disco. Il giorno del mio compleanno. Bene, eccoci e invece qua. Io sarò a New York al Columbus Day, a Italy, il grande complesso gastronomico di grandissimo successo italiano. Figurati se non volevi andare a suonare dove c'era un po' di cibo, peperoncini e con cose. Amici del jazz che vivono a New York, faremo qualche piccola esibizione di questa e la presentazione di qualche canzone tratta da questo nuovo disco. Verrà Isabella Rossellini. Come lo pronunci in inglese o americano? Cappuccina. Cappuccina. Ah, vedi? Sì, esattamente così. Ed è la versione americana di Permettete signorina, che cantava il defunto ma bravissimo Nicola Regliano. Questa sera far sognare, siamo stretti tra la folla, come batte il vostro cuore sul mio cuore. C'è la luna sul mare, è un invito a passeggiare, non mi dite di no. Eccoci, siamo pronti per salutarci, grazie Renzo, noi ci rivediamo domani e, certo. Potresti chiedere a Marites per favore se per domani a pranzo cucina qualcosa di più leggero di oggi, perché ha fatto questo zumurro accafardato che mi è rimasto un po'... Sì, perché la sto educando alla cucina pugliese, ha cominciato con la tiella, che come sai è riso, patate e cozze, però io ci metto anche un po' di turcinielli che dentro per dare, per fare... di sapore. Il pescato allora deve essere quello, perché mi, e quindi mi, è un po' pesante. Mi si è girato un torciniello. Non ti preoccupare, domani si mangerà filippino. Va bene. Ti piace il filippino? Mi piace il filippino, mi piace molto, piace buono. Allora, chiudiamo con Gregory Porter, questo cantantone, nel senso che di dimensioni abominevoli, e ho conosciuto un ragazzo bravissimo con una voce bellissima, ci siamo incrociati a Umbria Jazz Winter nella passata edizione, qui dal nuovo disco intitolato Liquid Spirit, in un brano che è un classico del repertorio jazz soul, che è The In Crowd, portato al successo da Ramsey Lewis. Era roba dei miei tempi quando facevo la radio. Allora senti questa versione, grazie, ci risentiamo domani. Grazie. I'm in the in crowd, yeah yeah yeah, I'm in the in crowd, it feels nice, it feels nice, it feels nice, it feels nice, it feels nice, it feels nice, it feels nice, it feels nice, it feels nice. Soundcheck. Il suono della musica.